I famosi denti del giudizio, tu li hai ancora? Sì, sì. Non avrei detto. Ma guarda, la viperina. Giuseppina, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, belle signore. Grazie. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E grazie, grazie di esserci, perché voi questa mattina capitate, come si dice, a fagiolo. A fagiolo, ecco. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare di te, da te. Come si stava bene a Bari davanti al mare. Guarda, una delizia. Sì, tu l'hai presa un po' alla lunga, ma alla fine eccoti qua, tornata in studio. Sei contenta? Molto. Sono mancata? Assolutamente sì. Potevo certo mancare naturalmente al nostro programma. Lo sai che per me ogni promessa è debito. Un modo di dire che non vale, a quanto pare, per un direttore di una banca, ormai ex direttore, che proprio a Bari, pensate, nei giorni in cui eravamo lì, senti che cosa ha combinato. Pare, questo è successo mentre stavamo lì in diretta, noi non ce ne siamo accorti, ma poi me l'hanno raccontato, che in una banca di Bari, appunto, una trentina di correntisti hanno protestato denunciando di essere stati truffati dall'ex direttore della filiale, che avrebbe sottratto loro non 2-3 euro, ecco, centinaia di migliaia di euro, simulando investimenti in titoli che invece non sono mai avvenuti, per poi chissà fare che cosa di quel denaro. Sicuramente se l'è intascato lui, sicuramente, pensiamo. Chissà, sarà andata a farsi un viaggione. Già. D'altronde i direttori di banca spesso non le mandiamo a dire, quando ad esempio non si mostrano troppo disponibili ad ascoltarci, però questo devo dire che ha davvero esagerato, una è truffa. Vero. Devo dire che è ovvio che questa sarà una circostanza, come dire, rara. Quei correntisti di quella situazione lì sono stati molto sfortunati e senza saperlo hanno scelto la banca sbagliata. Un'eventualità però questa che non poteva essere prevista e sicuramente la banca rimedierà. Di solito però la scelta della banca migliore dipende da altri aspetti che sono meno drastici, come dire, soprattutto dipende da noi e da una serie di variabili che possiamo conoscere e valutare solo ed esclusivamente noi. Non è un azzardo, insomma, scegliere la banca giusta. Un aiuto in più questa mattina ce lo dà, anzi ce lo darà domani, diciamo che ce lo dà questa settimana, il Sole 24 Ore. Sì, perché domani sarà in edicola con il quotidiano un nuovo dizionario della vita pratica, lo ricordiamo, è la seconda di queste 8 uscite tematiche per risolvere i problemi della vita quotidiana. Questa volta si intitola proprio La tua banca, come gestire i conti e tagliare le spese. È un tema che ci tocca tutti, visto che praticamente ogni famiglia possiede uno o più rapporti bancari attraverso i quali regola numerosissimi aspetti della vita quotidiana, un legame fondamentale che è in costante mutamento per effetto non solo dell'evoluzione della legislazione, ma anche della rivoluzione digitale. Anche le banche cambiano e questo dizionario ci racconta questi cambiamenti dall'A alla Z. Paolo Zucca, il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti, buona mattinata. Più specificatamente Plus 24 del Sole 24 Ore, che ogni sabato analizza in maniera molto dettagliata, anche raccogliendo molte lettere da parte degli ascoltatori, il rapporto tra noi e la banca. Cosa ci racconta la guida, Paolo, che lo ricordiamo, lo ribadiamo, sarà in edicola domani con il Sole? È un dizionario, quindi parte dalla A alla Z. Cosa vuol dire? Vuol dire che innanzitutto bisogna imparare a conoscere i vocaboli. Assolutamente. I vocaboli di banca sono facili in alcuni casi sono difficili. In alcuni casi sembrano facili e invece sono difficili. In alcune volte sembrano difficili e invece sono più facili del previsto. Quindi ad esempio la pagina 28, speriamo di non sbagliare, no? Si parla di conto di base, si parla di conto corrente servizio bancario di base, conto corrente a pacchetto. Sembrano tutti vocaboli simili. Ma in verità sono delle altre cose, così come TAN e TAIG, no? Le vostre siglette. Le nostre siglette, tutto. Quelle che vi piacciono molto. I tassi applicati al costo, per esempio, di un prestito e non solo, esatto. Sono differenti, ecco. Esatto, quindi con questa formula che ci sembra molto basic, molto facile, come è sempre diciamo l'idea del Sole 24 Ore, del gruppo in tutte le sue espressioni, c'è l'idea di andare ad aiutare chi vive. Sole 24 ore aiuta chi vive. Chi vive, e purtroppo questa, Paolo, mi piace molto questa cosa qua. Mm-hmm. È vero. Cos'è Sole 24 ore? Un modo per aiutare a vivere. Certo, assolutamente. Ma anche, però sentendola da te mi sembra ancora più carina, più efficace. Era una banalità, però aiuta a vivere, a superare la burocrazia. Anche loro che lavorano nel quotidiano, devo dirti che hanno rapporti con la banca, pagano il mutuo e quindi non sono delle entità astratte, questi colleghi giornalisti che lavorano per la carta stampata, ma messa a parte tutti gli scherzi. Deborah, come sai benissimo, come sapete tutte e due, con le telefonate che arriveranno, c'è bisogno di qualcuno con cui colloquiare, con cui scambiarsi delle idee. Quindi Sole 24 ore, questo è, con l'esperto risponde, con la radio, con tutti i suoi strumenti. Tra l'altro volevo ricordare, tanto per continuare appunto a raccontare delle loro iniziative, che nel numero di sabato scorso di Plus avete dedicato un'analisi ai fondi di investimento. Sì. E questa settimana c'è il Salone del Risparmio che si apre, noi saremo là, così lo ricordiamo ancora una volta. Mercoledì, giovedì e venerdì. Per chi volesse venirci a salutare e a trovare. E intanto vogliamo ricordare il nostro numero verde, 800 24 0024, anche per dare un significato dei termini con cui, entrando in banca, veniamo a contatto, pensiamo di conoscere, però alla fine poi ci rendiamo conto, come ha detto il collega Paolo Zucca, sembrano facili e poi possono nascondere delle insidie o viceversa. Perché guarda, in banca ci si deve andare, secondo me, sempre per continuare con questi paralleli che facciamo col mondo della salute, un po' come si va dal medico. Quando tu vai da un professionista della salute, gli spieghi esattamente quello che ti senti, quello che hai, per cui diciamo, il professionista è capace di farti un'analisi corretta e di prescriverti la medicina giusta se hai dei problemi. In banca si deve fare la stessa cosa, invece molto spesso davanti, come dire, all'impiegato bancario, al direttore di banca, si raccontano poche cose della propria condizione economica. Paolo, c'è ancora un po' di pudore a raccontarci dal punto di vista delle nostre finanze? Beh, direi sì, direi sicuramente, c'è sempre un po' di preoccupazione dell'interlocutore, ma in alcuni casi, paradossalmente, c'è anche troppa fiducia. Ah. Quindi in alcuni casi la simpatia dell'addetto della banca ti frega. Beh, l'avete detto voi, ti frego, comunque diciamo, ti porta, diciamo, sul terreno a lui preferito, e questo non è sempre bene. Bisognerebbe avere un atteggiamento che va al di là dell'empatia, della simpatia o l'antipatia, che è di fronte invece a ragionare un po' sul concreto. La scelta della banca giusta per noi dipende dal nostro profilo, ognuno ha le sue esigenze, le sue particolarità, bisogna fare un'autoanalisi della propria situazione, sempre il primo passo per scegliere il prodotto bancario giusto, il prodotto di investimento giusto. Allora noi salutiamo, per discutere di tutto questo, la dottoressa Luisa Baglietta dell'ufficio analisi gestionali dell'ABI, l'associazione delle banche italiane, che salutiamo. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie per avermi invitata. Grazie a lei. Quali sono i principali profili di clienti che individuate, dottoressa Baglietta? Perché naturalmente il mondo bancario esplora con molto attenzione anche il cambiamento che c'è nell'utenza, no? Ci fa una fotografia del cliente bancario italiano? Grazie di questa domanda, perché è interessante come l'avete introdotta, diciamo. È importante per un cliente oggi capire che quando sceglie una banca e un conto corrente deve partire prima di tutto dalle sue esigenze, da capire il proprio profilo. Questo si fa ormai in tutti, un po' per tutti i servizi, e sicuramente anche per la banca va fatto. E ogni banca in effetti presenta tutta una serie di offerte diverse in rapporto alle varie tipologie di clienti. Quindi quando si apre un conto nuovo, il consiglio è di informarsi, di confrontare le offerte, capire quella che meglio si adatta alle proprie necessità. Peraltro anche sui siti internet delle banche ci sono tutta una serie di informazioni molto precise su tutte le soluzioni che le banche propongono, e ci sono anche i fogli informativi di trasparenza che contengono tutto il dettaglio delle condizioni dei rapporti con la banca. Quindi è molto importante fare un'analisi, e per agevolare anche il confronto dei conti correnti può essere utile sapere che all'interno di questi fogli informativi c'è anche un indice sintetico di costo, il cosiddetto ISC, che è predisposto dalla Banca d'Italia per una serie di macro categorie di clienti. È un valore espresso in euro, dottoressa Baglietta? Per esempio, questo conto costa 10, questo conto costa 30, è facile dal punto di vista, diciamo, della comparazione individuarlo? Esatto. Esatto, è facile per la comparazione perché vi è un costo indicativo per la gestione di questi conti e in rapporto a una serie di tipologie, diciamo, di operatività dei clienti. È chiaro che un giovane, per esempio, ha un'operatività molto diversa da quella di una famiglia con magari più percettori di reddito, no? E quindi sono state definite 6 tipologie dalla Banca d'Italia che vanno appunto dai giovani, dalle famiglie con operatività bassa, poi media, poi alta e poi i pensionati con operatività bassa o media. E quindi da un certo numero di operazioni, un basket di servizi, non so, tipo 14-15 operazioni al mese per i giovani, fino ad arrivare a 20-25 operazioni al mese per diciamo le tipologie di operatività più complesse, quindi abbiamo la possibilità di confrontare le proposte delle varie banche. Certo, Nicoletta. Famiglia composta da 4 persone, operatività media, perché comunque pagate le bollette, immagino, non so se ci si impare che il mutuo non ci sia più. No. Le bambine sono comprese all'interno del vostro conto corrente o le avete rese indipendenti da questo punto di vista? No, la grande è indipendente, ecco, perché quindi, si è aperta un conto, non nella mia banca. Pensa che ha voluto andare in una banca diversa da quella della mamma. Che Paolo, secondo te quando ha fatto questa scelta come l'ha fatta? Tu hai seguito un po' i suoi movimenti? No, secondo me lei ha fatto come ho fatto io, sbagliando forse. Però io sono... Prima di tutto le bambine quanti anni hanno? 30. Una si è laureata la settimana scorsa. Tu sei sfacciato, 30. Come faccio ad avere io una figlia di 30 esatto, anni? Esatto, esatto. Vuoi riformulare la domanda? Avrei dovuto sposarmi all'asilo. Esatto, ecco, anche prima. Chiamare bambine sempre sono bambine, no? No, allora, lei ha scelto una banca comoda. Vicino nel tragitto. E attiva online oppure se va allo sportello? Le piace andare allo sportello oppure... Allora, non è che abbia tanti movimenti perché non ha tanti soldi. Poi però insomma anche un suo conticino e so che entra naturalmente online. Io ho fatto la stessa scelta, ho preso una banca vicino a casa, comoda, in modo che scende subito lì, però ho capito frequentando un po' Deborah, Paolo, che essere fedeli alle banche non sempre paga, è così? Assolutamente no, bisogna essere molto infedeli, adesso la dottoressa Baietta qui comincerà, a farsi sentire, però abbiamo verificato su Plus, proprio alcuni numeri fa, che chi non si occupa diciamo almeno 2 o 3 volte all'anno del proprio conto corrente finisce magari per pagare qualche cosa in più. Ci sono delle evidenze. Se posso fare un paragone, assolutamente, ecco, sì, un po' come i provider telefonici eccetera, cominciare a dire che magari si sta valutando un'altra soluzione, quelli ti chiamano in casa in genere il sabato alla 1 mentre stai mangiando, sì, eccetera, bravo, sì, stai scolando la pasta, esatto, però questo tipo di criterio di dire vabbè, però io credo che ci sia in giro qualche cosa di diverso, in genere porta qualche miglioria. Esatto, diciamo che fino a qualche anno fa un po' la banca veniva vista come quel santuario dove non si poteva assolutamente disturbare il direttore della banca, invece adesso, come dice, io lo dico sempre, Marco Fratini nel libro Vaffanbanca insieme a Lorenzo Marconi, per chi l'avesse letto qualche anno fa, la banca è un negozio, non è una chiesa, per cui si può trattare, negoziare. Dottoressa Baietta, credo che questo sia un suggerimento di buonsenso che anche lei, che comunque è una rappresentante di questo mondo, può dare tranquillamente, no? Oggi sicuramente ci sono molte più offerte in circolazione, molta più capacità di trattativa da parte dell'utente, del correntista, del risparmiatore. Assolutamente sono d'accordo. È cambiato proprio il comportamento anche delle persone quando si assumono questa scelta, a parte che la scelta è una scelta importante, perché non è come acquistare un qualsiasi altro bene, entrare in rapporto con un soggetto che poi ci accompagna nel corso della nostra vita, nei momenti anche importanti della nostra vita, quelli che sono connessi a delle situazioni economiche, no? E comunque il fatto della vicinanza, di scegliere la banca vicina, oggi è diventato un punto diciamo meno rilevante per scegliere una banca, mentre in passato lo era sicuramente di più, anche se comunque può essere importante per una serie di persone, perché chiaramente la banca si è dotata di una serie di nuovi modi per comunicare coi clienti e quindi non è più così necessario proprio andare sotto casa, avere la banca sotto casa. Certo. Poi ognuno fa le scelte. Certo. Per quanto riguarda la fedeltà mi dica? Io sono fedele. Per quanto riguarda la fedeltà, non è proprio così. Le banche in realtà rimangono vicine ai propri clienti per tanti anni, e ancora noi vediamo la durata dei rapporti con la banca è elevata, e le persone della propria banca alla fine sono anche molto soddisfatte. Ovviamente quello che è giusto è di capire bene come variano nel corso della nostra vita le nostre necessità, mm-hmm. e quindi man mano che cambiano con il ciclo della vita le necessità, vanno valutate anche altre prospettive di altre tipologie di conti, evidentemente, queste certo. cose con gli esperti. Allora, 800 24 00 24, provate a definire il rapporto con la vostra banca, vi fidate, vi sentite soddisfatti, vi ritrovate nei profili che abbiamo descritto prima con la dottoressa Baglietta, c'è qualcosa che non vi convince, raccontatecelo, i nostri ospiti sono qui per voi, è un rapporto che subite o che avete deciso di prendere di petto, magari proprio cambiando banca, rinegoziando qualche condizione che vi offre. Avete scelto la vostra banca confrontando costi e servizi, oppure solo perché era la più vicina a casa vostra, o perché quella a cui la vostra famiglia si è sempre affidata, un po' come capita con l'assicuratore, no? Poi magari ritorneremo sui paralleli anche con il mondo delle assicurazioni. Volevo solo ricordare una cosa, che a proposito di indicatore sintetico di costo, trovate tutti i dettagli su questa che è la misura sintetica del costo totale del conto corrente a pagina 40 della guida La tua banca, appunto in edicola domani con il Sole 24 Ore. Se non volete chiamare, potete scriverci al 349-238-6666 o su Facebook o su Twitter. Banca del sangue, rispondete, qui il rosso del pronto soccorso. Una metro. Eccola! Grazie. Fatemi sapere quanto sangue c'è disponibile. Ha perso sangue? Non molto. Emorragia di lieve entità. Dategli 6 unità di zero negativo. Avvertite la sala operatoria che stiamo arrivando per una laparotomia. Chi dice banca pensa naturalmente ai denari, ma c'è anche una declinazione di questo termine dal punto di vista del cuore, inteso come salute. Banca è un termine infatti che viene utilizzato in medicina per indicare un centro specializzato in cui si esegue il prelievo e poi si procede alla conservazione di organi, materiale biologico per un periodo di tempo prolungato. Le banche del sangue, dei tessuti, degli organi, delle ossa, che sono tutte collegate ai centri specializzati in trasfusioni e trapianti. Oggi a partire dalle 11.40 insieme al professor Grazzini, che è direttore del Centro Nazionale del Sangue, parleremo proprio delle banche del sangue, complesso in cui vengono analizzati e successivamente conservati gli emoderivati che sono raccolti dalla donazione spontanea di donatori abituali e occasionali. Allora invito i donatori all'ascolto a intervenire per raccontarci quanto questo gesto gratuito e volontario ha arricchito la loro vita e che cosa li ha spinti a diventare donatori, quindi a vincere quella sorta di grizia che ci fa dire ci penserà un altro, oppure non ho tempo, o ancora mi fa paura. Ognuno di noi, se rientra nei requisiti della donazione, può donare sangue, e ognuno di noi, pensate, ha il 20% delle probabilità nel corso della vita di poter ricevere una donazione. Su questo bisogna riflettere. Insomma, se è vero che i soldi non bastano mai, anche il bisogno di sangue in campo medico è una necessità costante, non può essere soddisfatta se non con la crescita del numero dei donatori. Parliamone insieme oggi a partire dalle 11.40 insieme ai nostri esperti. Iniziate a prenotarvi al nostro numero verde 800 24 00 24. Torniamo alla banca di denari e lo facciamo con gli interventi dei nostri ascoltatori, cominciando con Lorenzo da Palermo, che ci racconta un caso molto interessante perché è riuscito a portare a casa un bel risparmio con una rinegoziazione col direttore. Lorenzo, buongiorno, ci racconti un po', così magari il suo esempio può servire anche a tanti altri all'ascolto. Buongiorno, si tratta di questo. Io alcuni anni fa, per acquistare una casa, intorno al 2007-2008, mi rivolsi alla banca dove ero correntista per un mutuo di 160.000 euro, uh-huh. Che sarebbe servito per completare l'acquisto della casa. Mi fecero una serie di offerte, devo dire che le valutai anche ad altre banche e la trovai, diciamo, conveniente. Quindi iniziai a pagare questo mutuo, che era di circa 1.070 euro al mese per 20 anni. Uh-huh. E così andò per un poco di tempo. Casualmente, per posta elettronica, spesso arrivano una serie di notizie, di mail, banche, eccetera, e una mi portò casualmente su un mutui online, credo che si chiami. Insomma, sì, è un comparatore molto noto di offerte. Sì, esattamente. E lì feci la prova a simulare diciamo la rimanente parte del mutuo, eccetera. E rimasi allibito perché c'era un risparmio intanto di circa 15 o 16 rate e poi un contenimento, no, di 17 rate per la precisione, e poi un contenimento di circa 50 euro a rata. Senta, realtà... Lorenzo, però per capire quando ha fatto poi la rinegoziazione, poi le spiego perché le faccio questa domanda. Pronto? Lorenzo, quando ha fatto questa rinegoziazione? Quando ha cambiato mutuo? E la data? Sì, nel 2011-12, l'anno scorso. Nel 2011, nel 2011 è perfetto, stato. Perfetto, grazie. Anzi, la richiesta la feci nel 2010, mm-hmm. fine 2010, però poi la materiale operazione mm-hmm. venne fatta a gennaio del 2011 con, allora, un'altra, con un'altra banca, peraltro si accollarono pure la perizia, il costo del mutuo, certo. Non feci niente se non andare a firmare. Però la cosa che mi stupì fu un'altra, e le dico subito. Io dissi alla banca che mi aveva concesso il mutuo, vedete che c'è questa grande differenza, peraltro mi sarei aspettato che me lo diceste voi, ma insomma si fecero certo. una grassa risata, però dissi ma io perché devo cambiare banca, se me lo rinegoziate voi troviamo una e invece cosa l'hanno che... salutata senza problemi. Lorenzo, purtroppo devo essere frettolosa perché devo andare ai mercati finanziari. Il tema è che nel 2008 i tassi erano alle stelle, per cui era anche abbastanza inevitabile che tre anni dopo trovasse qualche offerta sul mercato molto più conveniente, però quello che ci piace commentare è proprio l'atteggiamento della banca originaria, che non ha fatto quasi nulla per trattenere questo cliente. Cuore e denari. Basta, non possiamo continuare a vederci così come due assegni che vanno sempre in bianco. Se vuole possiamo incontrarci fuori di qui. Scrivimi addosso non trasferibile. Ti amo, bancario. E voi? Mi viene la voce da litizzetto. Amate il vostro bancario? È gentile, bello, aiutante, rassicurante, sempre pronto ad un consiglio, ad una parola amica, ad un chiarimento. Paolo Zucca ci direbbe fermatevi, vero Paolo? No, si non può anche un bancario, un buono stipendio, un buono stipendio. È un buon partito, dici tu, mi devo orientare verso quel settore. Se siete bancari, gentili, belli, ai tanti, rassicuranti, sempre pronti ad un consiglio, chiamateci 800 24 00 24. Oggi in una puntata dedicata alle banche, parliamo naturalmente anche di loro, dei nostri amici dello sportello. Aspettiamo le vostre telefonate al nostro numero verde. Oggi Cuore Denari vi accompagna in banca, ma non parleremo, come anticipato, solo delle banche dove mettiamo i nostri risparmi, ma parleremo anche di banche del sangue. Allora, abbiamo ascoltato il caso di Lorenzo da Palermo, che ci diceva: io ho stipulato un mutuo, sottoscritto un mutuo nel 2008 e poi mi sono accorto che naturalmente negli anni potevo trovare sul mercato una condizione molto più vantaggiosa da parte di un altro istituto di credito. Paolo Zucca, poi magari commento anche con la dottoressa Baietta questo caso, ma nel 2008 quando l'ha sottoscritto, certo, i tassi erano alle stelle, era veramente il culmine della crisi recente del debito sovrano dell'Eurozona, per cui intanto era anche abbastanza naturale che col tempo le condizioni di mercato generali si tranquillizzassero. E però colpisce l'atteggiamento della banca originaria di Lorenzo, che non ha fatto nulla per trattenerlo. Eh sì, bisognerebbe invece cambiare l'atteggiamento anche in banca, immagino che ci ascoltino anche diciamo dei lavoratori bancari. Io credo che un cliente perso sia veramente una perdita, diciamo, per la propria filiale e anche per la propria banca. Quindi, salvo casi particolari, bisogna cercare di tenere il cliente, così come fanno i provider telefonici con no, i nostri contratti. Mm-hmm. Quindi offrire anche le condizioni migliori. È che se non vai a chiedergliele tu, non è che te le offrono spontaneamente. Esatto, quindi bene ha fatto Lorenzo, insomma, ad essere attirato subito da questa, non so cosa fosse, se una pubblicità, comunque una proposta, e quindi guardarsi intorno e non aspettare lì che vengano molto semplice, a chiamarci. Informazione e comparazione, certo. Cioè, sembrano due vocaboli lontanissimi dalla nostra vita, ma lo facciamo per le automobili, per tantissimi altri casi, con le mele, con la pasta. Leggo un sms di un ascoltatore che ci scrive: mi sono recato in banca, ho detto della promozione, brava, che era riservata ai nuovi correntisti, più vantaggiosa della mia, la promozione mi è stata applicata, basta chiedere. Basta essere informati e avere un po' di tempo a disposizione per informarsi, ma anche ascoltare questa radio, naturalmente domani, oggi pomeriggio. Bravo! E sabato Leggere Plus, prego. Dottoressa Baietta, le chiedo se ritiene qualche commento sui casi che abbiamo appena ascoltato. L'attivismo naturalmente individuale è sempre quello, l'atteggiamento che premia, e però qualche volta, se se anche da parte bancaria arrivasse una telefonata che ci fa un'offerta migliore rispetto alle condizioni magari vecchie e pattuite, non è che ci dispiace qualche volta. Che ne dice? Chiaramente siamo tutti d'accordo che bisogna sempre di più avere una posizione attiva, questo non soltanto nei confronti delle banche, ma un po' nei confronti di tutti, no? Di tutte le aziende che offrono beni e servizi. E ovviamente le banche sono in competizione fra loro, hanno delle politiche di credito una diversa dall'altra, hanno dei momenti anche di liquidità a volte diversi nel tempo, per cui adesso bisognerebbe un po' vedere nello specifico. Le banche stanno assumendo una posizione loro stesse anche di maggiore proattività. Noi ad esempio facciamo una rilevazione sui call center bancari e abbiamo visto che in effetti c'è un progressivo allargamento delle telefonate che vengono fatte verso i clienti proprio per proporre nuovi servizi, quando ci sono i momenti delle scadenze di certi servizi, vedere insieme come se si può organizzare l'appuntamento con il proprio gestore, e quindi c'è una posizione sempre più proattiva anche del personale delle banche in questa direzione. Tra l'altro so che di tutto questo parlerete anche presto in un convegno che si intitolerà Dimensione Cliente, ma prima di parlarne le faccio sentire ancora qualche altra testimonianza di altri ascoltatori. Sono pronti Giovanni da Modena e ha un caso che mi interessa veramente molto, e poi Nadia da Brescia. Giovanni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, scusate se l'audio non è perfetto. Chiedevo questo, io ho un conto cointestato con una banca con cui feci qualche anno fa una surroga molto conveniente mm-hmm. come tasso, di cui però mi fecero un out dicendo accettavano la surroga solamente nel caso facessi una assicurazione vita che era poi un prestito con dei tassi superiori al mutuo. Comunque, a parte questa, chiedevo se adesso posso chiudere il conto corrente e mantenere comunque il mutuo in essere, ma cambiando banca, ecco, perché ecco. Non è più conveniente per me, è onerosa ed è fuori mano. Guardi Giovanni, io lo sto chiedendo da tempo la mia e mi dicono che non si può fare. Io ho il mutuo, magari chiaritemi voi, però Paolo Zucca prima mi guardava, ho fatto questo caso a microfoni spenti, dice ma perché non è possibile? Me lo chiedo anch'io, però mediamente non ti mollano. Le banche ovviamente tendono a mantenere conto corrente e diciamo così, è mutuo in corso. Dopodiché, come sempre... tecnicamente per loro è più facile prelevare la rata direttamente dal proprio conto corrente piuttosto che farlo in un'altra banca, però sì, non capisco... Hanno una visibilità anche migliore diciamo della tua situazione in quel momento, della tua capacità quindi di rispondere puntualmente alle rate. Detto questo, ci stiamo dicendo in tutta questa trasmissione che è possibile valutare anche altro e quindi io farei una verifica. Vuoi anche commentare il fatto che contestualmente alla surroga la banca ha tra virgolette costretto l'ascoltatore a stipulare un'assicurazione? Anche questo è un caso piuttosto frequente. Eh sì, è un caso frequente e per certi aspetti alcuni margini escono nelle operazioni su mutui proprio dalla compagnia assicurativa, che in genere è quella di casa, non sempre ma in genere è quella di casa. E quindi, come dire, ci si va a coprire e nello stesso tempo si va ad avere un altro introito dal punto di vista dell'intermediario. Quindi è evidente, bisogna vedere un po' anche le condizioni, perché la precarietà in questo caso della vita, ma anche del mondo del lavoro, alcune volte favorisce diciamo così la scelta di un'assicurazione, però porla come condizione obbligatoria, ecco, invece diciamo che adesso non capita più tanto frequentemente, ma c'è stato un momento in passato in cui invece proprio nello scenario della crisi queste proposte erano molto appunto diffuse. Nadia da Brescia, sentirei, stiamo andando appunto verso la chiusura di questa parte dedicata alla banca, sentirei la nostra nuova ascoltatrice. Nadia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per avermi accettato. Allora, il mio problema è questo: quarantennale cliente di un grosso gruppo bancario bresciano. Sì. Pattuisco con il direttore dopo anni di perdite su borse, azioni, che non sto a perdere tempo, decidiamo di lasciare i risparmi sul conto corrente perché forse ristrutturiamo, forse no, la casa, lasciamo i liquidi sul conto, decido con il direttore, anzi lui mi chiama e mi accorda un 1,50% libero sul conto senza bloccare nulla, e mi accorgo purtroppo per colpa mia che non ho controllato mensilmente, mi accorgo a fine dell'anno, a febbraio, mi sono accorta che mi hanno dato lo 0,10, alcune volte lo 0,75 e solo per un mese l'1,50 pattuito. Mi sono lamentata con il direttore e mi ha detto: sì, ma tu parli con me come se io fossi padrona della banca, io sono solo un impiegato, io ti ho detto quello che potevo darti, in realtà non l'hanno accordato. Allora adesso mi sono un po' arrabbiata e ho detto: no, ditemi cosa devo fare, perché io voglio l'1,50 sui denari. Ma non glielo devono dire lei, Nadia, lei deve prendere, sa che cosa, portare via. 40 anni è un matrimonio veramente un po' troppo fedele, soprattutto se il nostro partner non ci soddisfa. Nadia, sento un commento da Paolo Zucca che poi deve salutarci, poi no, chiudiamo anche con la dottoressa Baglietta. Un conto è le cose che si dicono e un conto sono le cose che si scrivono. Non so se fosse, diciamo, un'offerta civetta, come viene chiamata in questi casi, è valida per alcuni mesi, oppure c'è stato un equivoco a danno del cliente. Comunque questo ci conferma una volta per tutte che bisogna dedicare un po' di attenzione ai propri interessi, senza esagerare, ma insomma un po' di attenzione. Io proverei veramente a trasferire tutto quello che ho in un altro istituto di credito, così vediamo se poi sono anche un po' più chiari quando ci fanno le loro proposte. Paolo, grazie intanto per essere stato con noi. Grazie. Un'ultima commento. Quindi Nadia domani prende l'inserto del sole, si studia bene tutti i termini, va preparatissima. Anche perché adesso ti dirò che c'è anche una modalità per trasferire tutti i rapporti che è molto più semplice da un conto ad un altro. La portabilità la può fare direttamente la nuova banca che scegli, si può incaricare, dottoressa Baglietta, di trasferire tutto il rapporto, il trasloco del conto, praticamente non mi ricordo esattamente come si chiama questa operazione, che possiamo trovare sul sito di Pattichiari ad esempio, però non è così complesso. Un po' come quando cambi operatore telefonico. Esatto, dottoressa Baglietta. Sì, ormai è acquisita questa modalità di lavoro, si va nella nuova banca, bisogna quando si decide di aprire un nuovo conto, si chiede di effettuare il trasferimento dei propri servizi, vanno identificati insieme quelli che sono i servizi di pagamento che vogliono essere, che si vuole trasferirli, la nuova banca si incarica di effettuare tutti i passaggi e quindi diciamo si dispongono tutte le attività in un'unica diciamo in un unico incontro e ci sono un numero di giorni prestabilito, abbastanza breve, in un paio di settimane si chiude la cosa, vengono trasferiti i servizi di pagamento dal vecchio conto al nuovo conto. Dobbiamo aspettarci naturalmente che la vecchia banca faccia un po' di resistenza, prepariamoci anche a questa eventualità, però se vogliamo cambiare abbiamo tutti il diritto di farlo. Non riusciamo ad andare oltre, ma dottoressa Baglietta, io la ringrazio per la sua disponibilità di questa mattina, ricordo che l'ABI organizza il convegno Dimensione Cliente, comunque ad aprile avremo il tempo per parlarne. Grazie, buona giornata. Grazie. Buongiorno, buona giornata, a presto. Cuore e denari. Adesso, care amiche, cari amici, è tempo di parlare di un bene talmente prezioso da non avere prezzo. Un bene che vale più dell'oro, che rende grande chi lo dona e può dare la vita a chi lo riceve. Parliamo del sangue, come anticipato, che viene analizzato e conservato in apposite banche, le banche del sangue, di cui oggi parliamo con il professor Giuliano Grazzini, che è direttore del Centro Nazionale del Sangue, che siamo lieti sia tornato a trovarci. Buongiorno, professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, ancora i miei più vivi complimenti per la chiarezza e l'utilità del vostro programma. Grazie. Grazie professore. Professore, di sangue come e più dei soldi c'è sempre bisogno, è il farmaco salvavita per eccellenza, ma non è riproducibile al momento in laboratorio, il fabbisogno è in costante crescita, ma questo è un dato positivo che si può spiegare con l'aumento della vita media, sicuramente, viviamo sempre più a lungo, ma anche con il miglioramento delle cure. Della qualità di vita dei malati, pensiamo al trattamento dei traumi gravi, alle malattie congenite del sangue, penso all'anemia mediterranea, agli interventi chirurgici che sono sempre più complessi come i trapianti d'organo, agli interventi di emergenza, insomma professor Grazzini, se i soldi fanno girare l'economia, il sangue garantisce la vita. Assolutamente sì, vorrei precisare che quando noi parliamo di sangue, di soldi, non ne dobbiamo parlare, perché in Italia, come del resto in tutta Europa, la donazione del sangue è un atto gratuito, consapevole, assolutamente esente da qualsiasi remunerazione, così altrettanto sono i prodotti. Certo. Il sangue garantisce la vita e lo dimostra il fatto che in Italia 650.000 pazienti ogni anno hanno delle trasfusioni, il che con più di 3 milioni di unità di sangue dei suoi componenti, quindi parliamo di 1.800 pazienti ogni giorno e ogni giorno circa 9.000 unità di sangue che vengono trasfuse nei nostri ospedali, nei nostri day hospital, nelle case di cura, anche a domicilio. Quindi sicuramente il sangue garantisce la vita. Professor Grazzini, qua entra in campo la donna di Denari, a cui piacciono tanto i numeri e le cifre. Su tutto il territorio sono sparsi oltre 1.700.000 donatori, il 4,4% della popolazione, compresa fra i 18 e i 65 anni. Questa è la fotografia dei donatori di sangue in Italia, secondo i dati che sono stati presentati lo scorso anno in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 giugno. Professore, siamo in grado, grazie al dono dei volontari, di coprire le esigenze del paese? L'Italia è autosufficiente? Buongiorno a lei, Deborah. Grazie. Sì, la risposta è sicuramente sì. L'Italia è da molti anni autosufficiente grazie a importanti e costanti politiche di promozione della donazione del sangue e grazie al lavoro di delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue che fanno sì che l'Italia nel suo complesso, grazie anche ad un coordinamento nazionale che noi svolgiamo ad un'attività intensa di compensazione tra le regioni, possiamo dire che il bilancio complessivo italiano è positivo, ma anche se non possiamo mai cullarci sugli allori, dobbiamo sicuramente tenere sempre la guardia alta per mantenere quel livello di donazione necessario per l'autosufficienza. Abbiamo in linea con noi Andrea da Firenze, invito i nostri ascoltatori, se sono donatori, se pensano di diventarlo, se vivono proprio grazie alla donazione di sangue, di mettersi in contatto con il nostro numero verde. Andrea, buongiorno, ci chiama da Firenze. Sì, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Grazie mille, vi saluto entrambe, siete molto brave. Grazie. Niente, io semplicemente avevo chiamato per dire, io dono da tanto tempo, un donatore era mio padre, era medico, donava. E io ho incominciato da relativamente giovane e da quando sono a Firenze regolarmente dono, ora tra qualche mese probabilmente arrivo a 100 donazioni. Complimenti. Ma perché da un certo punto in poi, siccome avevo il ferro un po' basso, mi hanno suggerito di fare le aferesi, che praticamente sono donazioni particolari, non di sangue to cure, ma dei componenti del sangue direttamente, diciamo, estratti alla fonte. È un po' più lunga, ma si può fare più spesso. E dico semplicemente che i vantaggi sono tantissimi, perché uno si ritrova gli esami del sangue gratis a casa praticamente ogni volta che va a donare. Se è dipendente ha la giornata libera. Sì. Quindi se è un giorno feriale si trova, se dona sangue, diciamo, una volta ogni 3 mesi con costanza, si trova 4 giorni di ferie in più. In più uno ha anche un extra da un punto di vista previdenziale dato dallo Stato. Se uno ha la pazienza di iscriversi al sito dell'INPS, vedrà che oltre ai contributi previdenziali dell'azienda di cui è dipendente, c'ha un versamento aggiuntivo per ogni giorno in cui è andata a donare. E grazie per questa informazione, perché Andrea, qua la donna di Denari era totalmente sprovveduta e non sapeva questa informazione. Grazie. E poi Andrea, da Firenze c'è quella colazione magnifica, vero? Esatto. Quella la vogliamo dimenticare. Quello l'ho detta per attimo, perché chi vuole, non solo c'è la colazione, c'è anche il parcheggio gratuito, e quindi con la difficoltà in città che c'è nel trovarlo è molto comodo. Grazie Andrea. Professor Grazzini, Andrea veramente potrebbe fare uno spot, vero? Un vostro testimonial. Un testimonial eccezionale. Assolutamente sì, ha dato una serie di informazioni molto utili per il cittadino, che sono incentivanti a donare in forma solidaristica. E poi ha sottolineato un aspetto che è presente nelle famiglie dei donatori, la cultura della donazione, che si passa proprio, si fa crescere da padre in figlio, da famiglia in famiglia. Solitamente i donatori allevano poi altri donatori. Certo, evidentemente il passaparola o quello che sono determinati principi che vengono affermati in ambito familiare sono molto importanti, ma è anche molto importante, oltre che all'interno dei gruppi già accolti in questo senso, anche portare il messaggio a tutti coloro che ancora donatori non sono, e questo è estremamente importante. In questo senso tutti i lavori di promozione che fanno in particolare le associazioni e federazioni dei donatori di sangue, che vorrei ricordare dei più grandi, sono Avis, sono Fidas, sono Frates e sono Croce Rossa a livello nazionale, fanno un lavoro veramente egregio, perché effettivamente è grazie a loro, e grazie a loro 1.700.000 donatori di sangue, che noi possiamo vantare i primati che in Italia in questo campo vantiamo. Professore, domani in edicola col Sole 24 Ore, l'abbiamo anticipato, esce il secondo dizionario della vita pratica, la tua banca, come gestire i conti e tagliare le spese. Anche le banche del sangue però devono misurarsi con questa sfida e hanno un appuntamento, una scadenza molto importante proprio alla fine di quest'anno. Eh sì, esattamente, entro la fine di quest'anno, cioè entro il 31 dicembre 2014, tutti i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue dovranno dare l'evidenza di essere a posto, con una serie di requisiti qualitativi che non è peraltro cosa di cui si sente raramente parlare in questi tempi per altri motivi, che l'Europa ci chiede. Cioè, per essere al pari dei più elevati, dei paesi più avanzati a livello europeo, tutti i servizi trasfusionali dovranno rispondere a determinati standard, dovranno subire delle verifiche ispettive. Avete quindi gli stress test nella sostanza, professor Grazzini? Come, scusi? Avete gli stress test proprio come le banche? Beh, in qualche misura sì, in qualche misura così è. Però il concetto di base fondamentale che va comunicato è che questo non avviene solamente per una questione burocratica, anzi tutt'altro, la necessità di conseguire livelli di qualità in modo da garantire al cittadino che la trasfusione e tutti i servizi che vengono erogati al cittadino stesso sono conformi a quei requisiti di qualità e di sicurezza che il cittadino ovviamente ha necessità. Quindi è una forma trasparente, sarà una forma trasparente di comunicazione al cittadino, che è molto importante. Allora, molto importante. Il professor Grazzini resta con voi. Noi raccontateci se siete donatori, che cosa invece vi è al momento impedito di farlo. Il professor Grazzini resta con noi e ha anche un ospite che, oltre ad avere sangue nella vena, come tutti noi, ha invece la musica nel sangue. A tra poco. Cuore e denari. Così lontano. Scherzo del destino, come dentro ad una nuvola di fumo, tu sei qui più vicino di ieri, mentre io guardo fuori, non ti aspetto così lontano, mondo, ma non troppo, non la distanza di un abbraccio, anzi no, di un baciamano, che è quello che mi ha fatto Giuliano Palma, che qui con noi in studio a Cuore Denari. Magnifico. Un uomo d'altri tempi. Dov'è? Quello sì, è vero, me lo dicono sempre, anche quando apro uno sportello, non so, faccio ti alzi per andare ad aprire lo sportello ad una donna? Cioè, ti sì, una porta anche, oppure la giacca. Allora il titolo del CD, calza a pennello. Mi chiedevo perché lo avessi chiamato old boy, adesso abbiamo capito, uomo d'altri tempi. Sì, un po' sì, mi piace. Secondo me bisogna riscoprire la cavalleria comunque. Bravo. Semplicemente perché è un'attitudine verso il prossimo, poi ti viene anche naturale fare altre cose, non so come fermarti e far passare le persone sulle strisce. Siccome mi hanno appena sfiorato le tibie qua sotto, va bene. E allora, così lontano, l'abbiamo sentito, il brano che hai portato a Sanremo. Sì. Contenuto anche in Old Boy, un CD che contiene 13 pezzi che spaziano dal funk a rhythm and blues e tanto altro ancora, ma in realtà Old Boy è il titolo di un film che io stamattina mi sono dovuta andare a ricercare, perché non sono così documentata dal punto di vista cinematografico. È un titolo che è di un film di, senti questa, no, dila te, dai, che Park Chan-wook. Ma non sentirti così, in realtà è veramente è un una po' cosa di nicchia. Bisogna essere appassionati, non è che voglia fare uno speciale, come si dice in gergo, mi piace il cinema orientale, mi sono imbattuto in costui. Ti lascio continuare. Comunque, no, diciamo che questo film poi è stato rifatto anche da Spike Lee, è più recente. Sì. Ma come ti è venuto in mente di intitolare il tuo CD con il titolo di questo film? Ma ci sono quanto tempo abbiamo? Scherzo, un po' di cose, nel senso, mi vengo sempre ritratto così come è uomo d'altri tempi, ma soprattutto vista ormai la non più giovanissima età, ma neanche giovane, ma l'attitudine che invece continua a essere quella di un po' scavezzacollo, soprattutto invece per le performance sul palco, salti, spaccate, fesserie, mi piace fare lo scemo. E soprattutto anche per la sono poco imprenditore di me stesso, insomma, arrivo ancora continuamente in ritardo, un pochettino superficiale per certe cose, ma in più il titolo mi piaceva perché, allora, veniamo al racconto del film. Che parla di un rapimento, di questo trentenne, un rapimento che neanche lui sa come mai si possa essere verificato, no? Esattamente. Insospettabile. Lui viene imprigionato per 20 anni, quindi secondo me è ventenne, lui entra a 20 anni e ne esce a 40, quindi fondamentalmente che è un ragazzo da questo posto e ne esce a 40, quindi ha perso un old boy, una grande fetta, esatto, quindi è ormai un ragazzo cresciuto e non sa perché, quindi lui ha bisogno di risposte, cerca vendetta, perché infatti il film appartiene a una trilogia chiamata La Trilogia della Vendetta. Anche gli altri due film parlano, insomma, affrontano questo tema. Lui fondamentalmente vorrebbe mettere le mani su chi l'ha ingabbiato lì e non sa né chi e soprattutto né perché. E quindi cerca vendetta, spiegazioni. Io fondamentalmente non ho nulla da vendicare, ma arrivo da un periodo lunghissimo di frequentazione con una band e con un progetto musicale che era Giuliano Palma nei Blue Beatles, quindi le cover eccetera eccetera, mi ero rotto le scatole di fare cover fondamentalmente e di essere un po' ultimamente considerato come quello delle cover. Quindi insomma, allora un po' uomo di esperienza e tutta la sua esperienza l'ha adesso Esatto, mi sentivo fondamentalmente un po' ingabbiato, quindi l'olboy in questo caso mi libero. E quindi mi sembrava perfetto. E pensa che in questo tuo volo di libertà incontri, vedi come sono gli incontri strani, non ti sarebbe mai passato per la testa di incontrare in una trasmissione radiofonica dove tu parli di musica, perché tu hai la musica, no, nelle vene, il professor Giuliano Grazzini, che è il nostro ospite di oggi, direttore del Centro Nazionale del Sangue. Professore, vede che intrecci strani ci sono a cuore Denari? Assolutamente sì. Assolutamente. E abbiamo lo stesso nome. Ma molto interessanti in ogni caso. Oltretutto, anche li abbiamo scelti apposta, professore, perché avete lo stesso nome. Fantastico. Abbiamo detto: con chi invitiamo il professor Giuliano Grazzini? Prendiamo Giuliano Palma. E così abbiamo creato questa coppia. Il nostro Giuliano Palma è un old boy, quindi un vecchio ragazzo. Chi dona, però, professor Grazzini, resta giovane, perché la cultura del dono fa bene. Ma anagraficamente si può donare dai 18 ai 65 anni. Ma oltre all'età, quali altri requisiti bisogna avere? Li ripetiamo brevemente, perché poi andiamo a leggere. Assolutamente sì, sono molto molto semplici. Innanzitutto si deve essere in buona salute, e chiaramente lo stato di salute viene accertato subito prima della donazione nei centri di raccolta, nei servizi trasfusionali dove si va a donare. Si deve pesare almeno 50 kg, il peso corporeo, e una cosa molto importante nella vita personale, nei comportamenti personali, in particolare per quanto riguarda la vita sessuale, non vi devono essere comportamenti particolarmente a rischio. Questo è estremamente importante. Poi presso il servizio trasfusionale vengono fatti degli esami estemporanei subito prima di donare, si fa una visita medica, si fanno tutti gli accertamenti, dopodiché si viene resi idonei o non idonei se si hanno dei problemi. Comunque diciamo che la stragrande maggioranza dei soggetti che si propongono come donatori, diciamo un 90-95%, vengono poi dichiarati idonei. La donazione di sangue, ci scrive Roberto da Genova, è controindicata negli atleti che praticano sport di resistenza, nuoto, bici corso, o comunque influisce sulle prestazioni? Quanto tempo prima, quanto tempo dopo una competizione è possibile donare? Allora, in linea generale la donazione del sangue non dà nessun problema agli atleti, anzi sostanzialmente può anche essere favorente. Mm-hmm. E le 24 ore prima e dopo le competizioni sono uno standard accettabile che si può indicare in modo assolutamente appropriato, ma vorrei assolutamente ripetere che non esiste nessuna controindicazione per gli atleti. Sono donatore, ma qui a Roma per un viaggio fatto in Vietnam per tornare ai luoghi che piacciono tanto a Giuliano Palma, ad agosto non hanno accettato la donazione un mese fa. E poi all'Avis, ci segnala Costantino, non fanno più il test del PSA che era utile per i maschietti per sapere come sta la prostata. Però è vero, no, professore, che dopo un viaggio in come dire, località magari particolarmente lontane da noi, come dire, il prelievo... C'è una temporanea cessazione. Certo, no, esistono tutta una serie di criteri, io non mi sono dilungato, chiaramente sono molto specifici, una serie di criteri di sicurezza, per cui a seconda del viaggio che si è fatto, della zona da cui si proviene e così via, ci sono tutta una serie di sospensioni, ma sono temporanee. La più lunga che si può verificare se uno è stato a fare un viaggio in una zona malarica, ma ecco, per il resto si tratta di sospensioni che vanno da pochi giorni fino a 28, 30, 35. Chiaramente comunque, anche la buona fede può ritornare dopo, insomma. Ecco, comunque sui siti delle associazioni di donatori si trovano tutte le indicazioni del caso. Sì, anche su quello del Centro Nazionale Sangue. Centro Nazionale 800 24 00 24. Abbiamo l'ascoltatore, ci chiedeva la donazione controindicata per un atleta, ma sicuramente salire su un palco è come fare una maratona, Giuliano. Sì, a tutti gli effetti. Che sudata si fa sul palco di Sanremo, quanti chili si perdono? Quello di Sanremo sudi per la tensione e l'emozione, in realtà. Devo dire, perché il palco scotta, la temperatura è molto alta, anche se devo dire che pensavo peggio, ma forse non essendo più così boy è un pochettino più old, forse un po' di esperienza. Io sto tanto sui palchi, quindi ho pensato, bene, Sanremo che sarà? A parte i milioni a casa che ti guardano, però poi alla fine è un palco, io sul palco fondamentalmente ci sto tantissimo. Io sì, sudo tanto e brucio tanto perché ballo tantissimo quando canto. E quindi sì, credo che sia tipo fare una partita forse di calcio o una corsa, sì, sudo tantissimo. Mm-hmm. E quindi brucio e consumo liquidi, quindi bisogna di recuperare forse. Beh, insomma, forma è ottimale di Giuliano, non si può, non sì, gli si può dire la voce, niente. Che per un cantante mi sentite? Poi guarda, resto... anche a noi ogni tanto va giù e che, su. Che abitualmente cantiamo tutte le sere. Certo, che speriamo di no, perché poveri noi. Antonello, allora, buongiorno dalla provincia di Alessandria e subito dopo Guido dalla provincia di Cuneo. Buongiorno. Continuate a chiamare, potete anche chiamare per parlare con l'altro Giuliano, non con Giuliano Grazzini, ma anche con Giuliano Palma. Se vi piace Old Boy, naturalmente, certo. Antonello, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Che ci dice? Io sono un donatore, donatore Avis e anche un runner. Vede? Un runner amatoriale, ho 2,51 in maratona. Canta anche, Giulio, canta anche. No, sul palco va bene. Palco, però complimenti per il tempo, complimenti per il tempo, mannaggia. Un attimo, premetto, nel 98, per cui master A. Oggi ho 56 anni, continuo a correre per piacere, non faccio più il campionato FIDAL. Io però è runner... donatore, runner ma sì. Donatore. Runner e donatore, runner amatoriale a tempo perso e donatore naturalmente per non essere disturbato nelle competizioni domenicali, vado direttamente al centro trasfusionale. Ecco, e dono mediamente dal 2001 ad oggi, ho fatto 25 donazioni. Sì. E per quanto riguarda il PSA, io ancora nell'ultima donazione, il 19 gennaio, ho fatto la richiesta del PSA che mi è stata fatta. Quindi il messaggio dell'altro ascoltatore che dice magari dipende dai centri. Infatti. Professor Grazzini, questo PSA che viene misurato ai donatori, si misura o no? Proprio la misura sarebbe molto lungo, sì. Cerco di dirla in una battuta, in poche battute. il valore del PSA per lo screening preventivo del tumore della prostata è molto questionato. In altri termini, sì, non è assolutamente un indice che viene sistematicamente consigliato come indice, come diciamo test di screening preventivo. Vi sono dubbi di attesa. Avevamo fatto, professor Grazzini, bisogna dare delle prestazioni appropriate anche, cioè bisogna dare un messaggio di appropriatezza ai donatori che vengono a donare, quindi sì agli screening preventivi che abbiano un fondamento scientifico veramente accettabile sotto tutti i punti di vista. Ecco, ricordo agli ascoltatori che avevamo fatto proprio una puntata intitolata al PSA della discordia, sottolineare che la comunità scientifica era abbastanza discordante. Cioè, su Antonello dalla provincia di Alessandria l'abbiamo sentito, mio figlio ha un tatuaggio, gli è stato impedito di donare, invece ci scrive Giorgio. Giuliano, tu hai tatuaggi? Neanche uno. Non ci tu credo. Vai a sapere tutto stamattina. Giuro perché non. Niente, non ti piacciono. Un old boy, perché sono tutti tatuati, sì, sì. Professor ecco. Grazzini. Vedo. Quindi sì, anche questo è un altro limite alla donazione. Limite. Il tatuaggio non è una controindicazione assoluta. Il tatuaggio diventa una controindicazione se non si può dimostrare di averlo fatto sterilmente e eventualmente si lascia passare un congruo periodo di tempo oltre il quale diciamo sono superati è superata la possibilità che il donatore possa essersi infettato e si può comunque donare. Quanto è quel congruo periodo di tempo, professor Grazzini? In genere si parla di almeno 30-60 giorni, cioè per chiudere quelle finestre attraverso le quali si manifestano le malattie infettive che si possono trasmettere con in un'eventuale situazione di mancanza di sterilità. Quindi la raccomandazione a tutti i giovani che usano molto farsi i tatuaggi di rivolgersi sempre comunque a soggetti che osservano le norme di igiene necessarie come sono necessarie in questi casi. E allora abbiamo ancora Guido alla provincia di Cuneo, ma noi abbiamo per presentarti, Giuliana, abbiamo detto un ospite che ha la musica nel sangue. E tu da quando l'hai scoperto? Beh, guarda, perché poi ti chiederò il tuo gruppo sanguigno, sì. Ti arrivo. Praticamente io sì, ho la musica nel sangue, si può proprio dire, perché ho origini napoletane, mamma e papà di Napoli e hanno sempre cantato, nonostante non siano dei cantanti, due operai, ma tutti e due bravissimi, molto intonati, e quindi fin da piccolo è stato abituato a sentire qualcuno che cantava e tanta musica. Bello. E quello credo che mi abbia abbastanza indirizzato, però poi non ho deciso che poi avrei fatto il musicista, in realtà per caso, cioè è successo e l'ho capito anche tardi fondamentalmente, ma che avessi la musica nel sangue l'ho capita perché avevo anche molto orecchio fin da ragazzino, quando andavo a scuola suonavo il flauto dolce, cantavo e suonavo invece di fare le canzoni, il minuetto di che ne so, di Mendelssohn eccetera, mi chiedevano tutti di fare le canzoni della classifica dell'Hit Parade, non so, Love Me Baby With Emotion, così io intrattenevo gli amici perché non mi costava nessuno sforzo suonarle. E quindi quello forse era un po' di, però non ho mai deciso poi di fare il musicista fino a che non ci sono trovato. Eccolo là. E il tuo gruppo sanguigno lo sai? Sì, o perché no? Dopo gli faccio anche l'altra domandina simpatica. No, guarda che guida che abbiamo presentato stamattina, poi ti tocca pure questa, sappilo. Sono ferratissimo. No, io mi intendo di gruppi musicali, ma il mio gruppo sanguigno, maledizione, so che lo sa mia mamma, e quindi un attimo la chiamo e lo chiedo. Allora, noi abbiamo 30 secondi per chiudere. Professor Grazzini, allora ti risparmio la domanda sulla banca. È meglio in 10 secondi, è meglio conoscerlo il proprio gruppo sanguigno. Sempre essere utile. Ma dunque è un'utilità relativa, perché nel caso in cui si dovesse avere bisogno di una trasfusione non ci si fiderebbe mai di un gruppo sanguigno riferito a voce da un cartellino trovato in un portafoglio. Quindi se Giuliano Palma sempre fatti dei controlli aggiuntivi. Quindi se Giuliano Palma va a donare ti dicono anche il gruppo sanguigno. Professor Grazzini, grazie, torni presto a trovarci. Buona giornata. Grazie. Non chiedermi perché. Questo è un tuo amico che canta, lo riconosci? Il bacio crudele, no, tra l'altro, magari solo in 5 secondi, se ce la facciamo, un CD di inediti, sì, dei brani di Sanremo, ma anche tante collaborazioni per te. Sì, sì, perché ci sono una cricca di vecchi amici, da cito Samuel di Subsonica, con cui ho già lavorato, abbiamo fatto anche un singolo insieme, ha scritto Ora lo sai, per non farsi mancare nulla, visto che mi piace anche il rap, ho invitato Marrakesh, come ieri, Nina Zilli che magnifica. Allora, manchiamo solo io e te ad andare a cantare, eh? Meno male che non ci ha chiamato. Mi invito la prossima volta. A domani, grazie Giuliana Palme, a tutti, a domani. Ciao.